Renato e il vento. Poi sono saliti via Roma, per primo di via Roma, che hanno caricato il cartone. Eia, già lo so, però poi vanno a coso, no? E vanno a scusarsi nel giornale che avevano i compattatori guasti con i liberi cartoni, hai capito? Capito. Operatore. già mai dato questo contatto. Lo so, e io l'ho fatto l'inverno lì, quella tratta lì, perché facevo Cagliari e Macchiareddu caricavo, poi facevo tutta la Pedemontana e facevo Pula, e poi Santa Margherita di Pula, con le luci delle fotoelettriche accese scaricando la notte. Vediamo com'è, abbiamo visto che da pura va bene per andare a abbastanza la rete, quindi invece di sopraggiunti, domande, da carbone, da carbone, sai che da carbone, ma la carbone la giù sala, che non è tanto già per sala, perché sono imbecilli. No, ma quella è praticamente da matti di fare quella strada lì. E poi se una persona, guarda, è semplicissimo, se una persona si documenta bene prima di partire, secondo dove devi andare, guarda, io sono sicuro che non solo di trovare le strade migliori, ma riesce anche a ottimizzarvi i percorsi. Invece cosa è se parti a occhi chiusi, casi becchi tutte le mulattiere? Poi si aprirava anche perché allora poi i satellitari erano già riusciti con le cartine ancora dell'era del 43. E figurati, allora guarda, sono già stati fortunati che l'abbiano trovato messo a Sant'Arrisi. E no, era la sua volta, sai, che gli dava quella situazione lì. Ma dico, cioè, lo sai che non sono tanto affidabili, perché diciamo, se non sono, tuttora ancora qualche cosa, se non sono aggiornati, aggiornati, se ti vado lì a casino, è positivo, sì, già lo so, sì, i cosi, i navigatori se lo sono aggiornati, guarda, non c'è cosa più torpida di quelle macchinette lì. Allora, funzionano bene se sono aggiornati, ma aggiornati proprio, se no... Allora guarda, qualche anno fa sono andato a Palermo, e ho trovato amici lì col navigatore, no? E da Palermo ci dovevamo spostare a Trapani, e aggiunto non mi pare strano, cazzo, ho detto, in nave io vedevo, perché arrivando in nave mi guardavo bene le coordinate, e gli ho detto, secondo me stiamo andando dalla parte opposta, e lo sai dove stavamo andando, verba? Dove? A Catania, da tutt'altra parte di Trapani. Addirittura. Per una rotatoria che il loro satellitare non gli ha letto. E io dicevo, il mio satellitare mi sta dicendo che noi stiamo andando dalla parte opposta di Trapani. Infatti mi diceva sempre, riaggiornare il percorso, riaggiornare il percorso, navigaggio, io ho base di Sunalli, di Rampi Gialli, oh, 140 fisso lì, E così sono questi apparecchi qua. Sono così, che funzionano bene se sono aggiornati, vicini aggiornati, se no non funzionano le idee. Otto richiedi però metami da Palermo a Trapani, gnogno, tutta canta sopraelevata, ciò, per carità. Lo sai che non l'ho mai visto. Guarda, un giorno che riusciamo a organizzarci, anche in estate se vogliamo andare, perché c'è la nave che fa Cagliari-Palermo e arrivi di sabato mattina, e poi c'è la Trapani che parte la domenica sera e fa Trapani-Cagliari. Trapani, Cattaglia, no, Palermo sì, ma andate arrivati e poi ripartiti, ma non tirato, eh. E grande mi Palermo, io ci sono stato una mattina girando, mi chiamano mi. Papà, ma poi, vabbè, sto anche dicendo cazzate perché non era proprio Palermo, dai. Praticamente era fuori Palermo. Immaginate di turno, non ce l'hai mai visto Palermo. No, io l'ho visto bene, perché quando sono sbarcato dalla nave e l'appuntamento era la stazione centrale di Palermo. E ti dico che di strada dentro ne ho fatto lì. Tre corsie da una parte, tre dall'altra, bookending 20 dannati. Cappa, figurati che hai tre corsie per coso, le vie sono larghissime. Non l'ho mai visto. Dove vederlo? Guarda, è una cazzata andarci, io credevo che invece è uno spasso. Ciao, organizziamo, Cappa, quando volete, per me lo io quella strada l'ho già fatta, e però io mi sono trovato bene. Si sa, si riusciamo a organizzare, non riusciamo a organizzare, abbiamo fatto la casa, figurati. Ah, guarda, io ci metto poco lì, come la volta, ho ancora il biglietto qui, perché ho conservato tutto, anche tutte le cose che ho portato giù dalla Sicilia. Io, quando mi salta il Chirivito, vado, ho fatto il biglietto qui via Pascoli, figurati. Via Pascoli, perché non è più biglietteria? Appa, dove ci sono le poste italiane? Poste italiane... Ci sono le poste sarde, no? E di fronte, cosa ti posso dire? Via Pascoli, appena più in giù del coso, appena prima, diciamo, dell'angolo di via Bugino. Abbiamo fatto tutto loro prenotazione, guarda, io sono andato solo giù a Cagliari e ho aspettato la sera a imbarcarmi. E c'è anche la strada a fare per arrivare a Cagliari a proposito. Cate, figurati, ero da solo, una passeggiata. Piano piano sono arrivato lì, ho posteggiato la macchina, me ne sono andato via a Roma Cagliari, mi sono preso una cosa lì bella fresca, ce n'è di tempo. Muori questi giorni, organizziamo, va? Positivo, non c'è problema. Guarda, l'unica cosa è che uno non deve essere diabetico quando va in Sicilia, ma che dove ti giri, qua sei tutto tanto rossi, chimi. Allora, per qualcuno è proibito, Guarda, mamma mia cara, le cose buone che ci sono lì, Se uno non è come io non fermo, se io non fermo non ce n'è sensazione. Ebbè, positivo, ma è così, Se ti fai tentare, ti dà ragione. No, ma io dico qualcosa, sì, ma poi, cioè, il blocco per tutto va. Ma certo, per tutto ci deve essere un limite, ma stiamo scherzando. La cosa, per forza di cose, bisogna assaggiarla, poi non è che uno si deve tracannare, no? Ma dai. Infatti, adesso ti accontento, da domenica notte a mezzanotte ti accontento per una cosa, Giuseppe. Da domenica notte a mezzanotte? E cosa devi fare, dieta? Da domenica notte a mezzanotte abbiamo deciso, ho preso la decisione. Io e Antonio e ti accontentiamo. E quindi? Quindi sarai contento. E di cosa? E tutta la prossima settimana non ti affamichiamo più. Ah, avrete cavolo, quella è una bella notizia. Abbiamo deciso, da domenica notte a mezzanotte non si fuma più. Ma guarda, se riesci a raggiungere quel traguardo, poi mi torni la risposta, Pierpa. E mi dici, Giuseppe, ragione avevi? No, corsi qualche corsi, cioè, bisogna farlo, non ci sono più speranze di fumare, no, Giuseppe. Basta, abbiamo preso la decisione, salvo questa settimana, da domenica, mezzanotte è finito. Guarda, io ti dico la verità, sono 7 anni, grazie a Dio, che ho buttato via tutto, però ti posso dire che proprio rinasci, proprio giorno dopo giorno ti senti che stai rinascendo. Ma guarda, anche per un motivo molto semplice, perché ci siamo fatti anche un giro di conti, che in due, ma conti vestiti senza andare molto largo, conti vestiti se no è anche di più, in due spendiamo 450 euro al mese. Lo so, e so anche per quello, lo so, anch'io avevo fatto quel giro di conti. E siccome di ingrassare la canna loro, io ho le palle piene, e poi ci si guadagna la salute, ci si guadagna tutto, ci rimane qualche soldo in tasca in più, e quindi non ne vale più la pena, anche perché ho visto l'altro giorno, c'erano dai 40 centesimi, ce l'ho di più, a pacchetto, quindi è diventato un rumore che se ne fumino loro allora. Eia, Pierpa, guarda, è troppo contento, veramente troppo contento perché è un bel gesto, guarda, che merita attenzione, perché non sono tutti, tutti. Allora, Antonio ci ha preso un calo, come sarà, infatti, da oggi, era un po' così, ma piano piano, io ho deciso che da sabato, già sabato notte, praticamente di oltre le sigarette inizio a fumare sabato notte, poi la domenica inizia il cavo totale, da mezza notte stoppo, si sentiva, se ce le ho, le prendo, le strappo, le butto via. Positivo per Papa, positivo perché io qua mi ero dimenticato anni addietro che avevo quattro pacchetti di Liana Blu Dure dentro il mobile che c'è lì in cucina, dove c'è la televisione. E niente, ce li avevo, ti dico la verità e te lo giuro, non ne ho mai aperto uno di pacchetto. Poi alla fine si è dato una pelle con gli altri. Papa, no, io devo andare drastico, perché se anche la mia volta ce l'avrei pulito, e poi, avevo quasi il peso, poi, un po' per nervosismo ho aperto le sigarette, invece se non ne ho, niente, butto via tutto e basta, non le devo avere. Sì, certo, beh, quello è sicuro. E poi guarda, voi essendo in due, se riuscite a darvi dentro settimana un colpo di mano uno con l'altro, tra padre e figlio, no? Vedrai che Pierpa, secondo me ci riuscite meglio, cioè con meno sofferenza. Ma la sofferenza si deve andare via, no? E questa volta... Questa volta sono determinato, le volte non ero così determinato, ma adesso sono proprio determinato al 100%, mi sono tirato le palle. Vedi, e quello è già tanto, perché vuol dire che proprio è anche la testa, che poi in definitiva è quella lì che comanda più di tutti, vuol dire che proprio la testa è proprio determinata a fare quel passo lì per papà, e quello è già un ottimo inizio. No, ma sono determinato perché non ho... sto andando aumentando, mi faccio schifo da solo. E prima che aumenti ancora di più è meglio bloccare, perché mi sono rotto le scatole. Perché il fumo è quasi sempre il traverso. Mi fa venire dei tantissimi indici di luce. L'altra vita si è andato con traverso, guarda, per un po' non muoio, sto stesso. Mi sono rotto di palle, anche per quello passa. Guarda, una notizia ottima, ne sono veramente contento, perché è una bella cosa, ti ripeto, è una bella cosa. E poi guarda, se passa la prima la seconda settimana per far, poi non te ne accorgi, perlomeno io ho fatto così, non mi ha aiutato nessuno, io me ne fumavo due mesi di pacchetti di sigarette, non mi ha aiutato nessuno, la mia testa aveva detto, come hai detto tu, basta, proprio il rotto di palle, in tutto e per tutto, basta, avevo preso gli accendini, ci avevo buttati dentro la cristalliera in cucina, basta, ero uscito senza sigarette, e dal giorno non ho più fumato. E poi lì, c'è nulla che tu non puoi dire se ti sto dicendo bugia. Va bene, poi quando si assieme un colpo di mano ci si dà ben volentieri, perché l'importante è tenere la testa distratta, mi hai capito? Perché bastano quei 15 giorni, perché poi quando cominci a perdere il sapore dalla bocca di quella porcheria lì, solo l'odore ti dà fastidio. Yeah. benissimo, perché proprio, diciamo, il passo giusto. Sì, il passo giusto, guarda, proprio per buttarcene. E poi, ti ripeto, a me tante volte, o perché si erano dimenticati, o perché non lo sapevano, no, che avevo smesso di fumare, sai quante volte si giravano anche amici, Giuseppe, no, no, grazie, per carità. E oggi come oggi ti posso dire che prima di riprendere a fumare, guarda, preferirei abbassarmi il pantalone e le mutande, e le mutande le mettermi a 90 gradi. Lo preferirei, perché per mettermi la sigaretta in bocca dovrei essere proprio mamma. Cominciamo a rollare, adesso non so se era un trasformatore. erano le coppane dei pannolini, cavolo, ma erano pubblicità, vedi, non noiose come queste, pubblicità proprio che ti, proprio li seguivi dall'inizio alla fine. Se no quando le sciaghette usate in guardia e quando delle cinare, te lo ricordi, che si usava col tavolino in mezzo al traffico. Ma pubblico belle come pubblicità, belle. E poi mi ricordo anche che alcuni programmi alla televisione ancora non li davano, perché mi ricordo Babbo che si ascoltava la corrida di Coso, di Corrado alla radio. Questo nuovo aggeggio, cioè ma io dico questo, ma la verità qual è alla fine dei conti? Questi soldi ci sono o non ci sono? Appunto, per tornare alla cosa delle tortuga, cioè sono che a parole che non voglio dire, ma il progresso che ci sta ammazzando è quello perché l'editoria doveva finire e nei posti di lavoro i computer, quello che facevano, che ne so, quattro persone con un computer e lo fa una persona per fare anche su quello, cioè secondo me stiamo sfidando un po' troppo la sorte, stiamo andando, forse secondo me siamo già andati troppo le possibilità, siamo andati oltre cioè le possibilità di quello che può fare un essere umano, hai capito? Cioè secondo me ci stiamo autodistruggendo da soli, questo è il mio modestissimo parere. Poi giustamente c'è chi dice che il progresso deve sempre andare avanti, ma io non lo vedo così comunque. Sono passati perché come tutte le cose poi col progresso subentrano le nuove cose. gli altri erano tutti quanti massicci, belli pieni e via via. Però si viaggiava lo stesso. Con lo stessi, se si viaggiava, si viaggiava prima con quei camioni. Lo credo bene Giuseppe, è lui che si viaggiava e duravano anche di più di questi adesso. Quelli erano autotreni, perché gli articolati manco esistevano ancora, quelli erano gli autotreni, motrice più rimorchio. Positivo. Bene, dai, io sono entrato a salutarmi, perché sono stanco e ho mancato forte oggi. Saluto José, dai, tutte le migliori del possibile, anche a te e a Giulio Bobo, vai. A Brena, già vedo più luce, c'è. Ritenetevi tutti super salutati, dai, due venti da parte mia, ciao. Ma ciao, qualche ragazza, risentiamo. Ciao Malche, ce la risentiamo e adesso anch'io chiudo, perché anch'io sono reduce da 16 ore di trambacco e devo dire la verità, io devo ancora mangiare, cioè io devo ancora ancora cenare, mangio un boccone, guarda, mi ci butto sul letto e niente, a domani, perché oggi è giornata da cancellare dal coso, dal calendario, stanco come un asino e niente. Ma ancora tu ne hai guidato di quelli lì? Sì, beh, certo che l'ho guidato. Mi ha fatto in caccia. Vabbè dai, buonanotte Giuseppe, ti trovo in complicato. Alto, buonanotte anche a te, buon trabacco per domani al tutto e ce la risentiamo. Buon QRT e buon 144 quando lo fai. Ciao Alto, ci sentiamo. Ciao, buonanotte.